Io non volevo venire. Non volevo mica venire. È colpa di mia moglie. Ha insistito molto perché venissi qua. Mi ha obbligato. Dice che sono in crisi. Dice che devo andare a farmi vedere. Ma non ho niente io. A parte che non riesco a dormire. Ecco, sì, ultimamente non dormo molto. E quelle poche volte che mi addormento mi sveglio di colpo. Ma per il resto sto benissimo. Allora, dato che non ho nessun problema, pensavo se non è il caso di rimandare quando ho dormito di più, magari quando sono un po' più lucido. Vengo un giorno della prossima settimana. Arrivederci. Ah, la seduta la devo pagare lo stesso. Beh, allora, visto che ci sono, rimango. Così mia moglie è contenta e la facciamo finita. Devo raccontare da sdraiato, giusto? Se no, non vale niente. Non funziona. Sì, io la so questa cosa che se racconto da seduto non vale. Lo dico soltanto perché siccome non ho dormito, magari sul lettino... Se però mi addormento, non è colpa mia. Non riesco a dormire. Non sono mica i miei occhiali. Non sono i miei occhiali. Dove sono i miei occhiali? Sono mesi che sto seduto nel mio ufficio tutto a vetri. Vedo di fronte a me tutto quello che avrei dovuto fare e non sono riuscito a fare. Lavoro alla mia scrivania, ma sento che non faccio niente, che non combino niente. Tutte le giornate passate ad organizzare le giornate, anche quella telefonata che doveva arrivare. Lui non aveva tempo, mi ha detto che mi richiamava, ha detto forse, un forse per lui grandissimo. Li vedo passare avanti e indietro i miei colleghi, quelli che lavorano, quelli che fanno qualcosa. Io invece sento che non faccio niente. I colleghi passano. E non mi vedono neanche più al di là del vetro, come se io non ci fossi, come se non fossi mai stato nel mio ufficio. Li guardo camminare dentro i loro bei vestiti, loro che lavorano. Li invidio. Mi è anche arrivata la comunicazione del mio direttore del personale che deve parlarmi. C'è la crisi! La finanza internazionale che schiaccia i cittadini! La globalizzazione. E quando c'è la crisi bisogna cambiare le cose. E noi cosa facciamo? Noi la trasferiamo. Lei nel frattempo faccia tutto quello che deve fare. Ha capito? Lei no, quello che deve fare. No. Sono mesi che sono seduto nel mio ufficio, ma non succede niente. Ha capito? Lavoro alla mia scrivania, ma tutto rimane uguale. Mia moglie mi chiede come va il lavoro, mi vede un po' strano. Bene, dico bene, non le ho detto niente, ma mi sa che ha capito che c'è qualcosa che non va. Mi dice che mi vede un po' preoccupato, un po' ansioso. Mi dice che sono in crisi. Sì, è vero, cara, mi sono un po' depresso, ma non è colpa mia. È colpa di quello che accade intorno a me. È colpa degli articoli sui giornali, delle trasmissioni televisive che dicono che c'è la crisi, la disoccupazione, la recessione. che la finanza internazionale distrugge i cittadini e che la politica è impotente. Anch'io non sono da meno. Durante la notte, appena sento un rumore, un vagito di mia figlia, mi alzo e vado a vedere se è successo qualcosa, a vedere se sta bene, se respira, se è viva. Ho l'ansia, ho paura di tutto. Eppure, vede, non mi dovrei preoccupare, sono carino, ho qualche soldo in banca, la salute non mi manca, mi devono soltanto trasferire. Ma sento che c'è qualcosa che non va, che non funziona. Ma quanto tempo ci mettete ancora a trasferirmi? Ah, ci sono degli obiettivi aziendali, devono essere raggiunti. Stiamo aspettando che lei finisca di fare quello che deve fare. Ma che cos'è che devo fare? Non ho mica capito quello che devo fare. Ma la telefonata era già finita da un pezzo. Mi aveva passato la segretaria. Lei deve aspettare la telefonata del direttore del personale. Sento che c'è la crisi. Fuori, ma soprattutto dentro di me. Ed è una sensazione che mi prende dalla punta dei piedi e sale, sale su, fin sotto i maroni. E mi schiaccia la testa! Esco, esco. È un po' di tempo che la notte esco a camminare, guardo un po' di televisione e poi invece di andare a dormire esco a scaricarmi, a scaricare l'ansia, a scaricare lo stress. Esco a camminare perché mi fa bene. Non tollero neanche più la vita familiare, la chiusura delle stanze, il silenzio perché bisogna dormire, perché se no la piccola si sveglia. Sono stanca, sono distrutta, bisogna andare a letto presto, se no domani come si fa ad andare a lavorare? Come si fa? Ed mi sento compresso. Allora guardo un po' di televisione, metto a letto la bambina, bacio mia moglie e dico la fatidica frase: vado a comprare le sigarette e il latte per domani. Il latte e le sigarette per domani, che sono i miei amici, i miei alleati per la notte. Riesco a scendere solo la sera tardi dopo le 10 e mi metto a camminare, e anche se c'è un bel freschino sono già più felice. Cammino lungo il marciapiede, cammino per vari isolati, sto con me stesso da solo, perché la cosa bella è che il marciapiede è vuoto. Posso camminare come voglio, posso andare avanti, indietro, posso andare a zigzag, posso saltellare. Capito? Andare avanti e indietro e saltellare. Posso fare quello che voglio, tanto non c'è nessuno. Non c'è nessuno che mi dice che cosa devo fare. E che non ho ancora fatto quella cosa che dovevo fare e riesco a tenere lontano tutte quelle cose che dovevo fare e che non sono ancora riuscito a fare. E soprattutto, non c'è nessuno che mi dice che sono in crisi. Non c'è nessuna crisi. Ci sono soltanto io sul marciapiede e non c'è nessuna crisi. Ecco, all'inizio non capivo bene che cosa mi stava succedendo, assecondavo questa voglia di uscire da casa e camminare di notte e basta. I primi giri che facevo passeggiavo con un'andatura tranquilla, rilassata, guardo le macchine parcheggiate male, parcheggiate in doppia fila. Me ne sbatto, dico, la mia auto è in garage. Poi guardo quel ragazzotto dentro la Smart che ascolta la musica. Ero felice, non è che fossi realizzato, però ero abbastanza felice. Dicevo, è tutto normale, solo un po' di stress. Scarico un po' di stress, arrivo al bar notturno, prendo il latte, scarico un po' di stress. Poi scendo al distributore di sigarette e scarico un po' di stress. Ma man mano che passavano le settimane, le mie camminate sono diventate più svelte, più nervose. Scendo, c'è il solito freddino. Vabbè, sono felice. Cammino lungo il marciapiede. Cammino per vari isolati. Sto con me stesso da solo perché il marciapiede è vuoto. Posso camminare come voglio. Posso andare avanti, indietro, posso zigzagare, posso saltellare e tento di tenere lontano tutte quelle cose che dovevo fare e che non sono riuscito a fare. Guardo le macchine parcheggiate, parcheggiate in doppia fila, parcheggiate male. Poi vedo quel ragazzotto con dentro che ha bloccato l'entrata del mio garage. Vado a comprare il latte, compro le sigarette. Ma mi sono reso conto che non mi bastava più prendere una boccata d'aria via da casa, via dal lavoro, no. Non mi bastava più la libertà di una camminata notturna, avevo bisogno di una libertà più profonda, di una libertà più interiore, più mia. Perché tutte le volte che mi ritrovavo di fronte al portone di casa, con il latte e le sigarette, mi sentivo sconfitto. Mi deprime la sensazione che qualsiasi strada faccio, torno sempre a casa. Che sono sempre su un circuito chiuso e tutto rimane uguale. A volte, durante queste mie camminate, girando intorno agli isolati, disegno un 8, a volte anche un 88, a volte figure più complesse, ma qualunque tragitto compio sono percorsi che si aprono e si chiudono col portone di casa mia. E tutto rimane uguale. Cerco una strada che non mi porti sempre al punto di partenza, vorrei fare qualcosa che spezzi il cerchio della monotonia, che lasci un segno del mio passaggio, qualcosa che mi dia l'idea che non sto scomparendo dentro la mia crisi. Allora una notte sono sceso con la ferma intenzione di prendere a calci i semafori del mio quartiere per lasciare un segno del mio passaggio. Dico, i semafori, se gli dai un calcio bello forte sulla centralina, si spengono. Provate. 2 ore, ecco però. Stanno spenti solo 2 ore, poi lampeggiano e dopo un po' si riaccendono come se nulla fosse stato. Una fatica bestia inutile, col rischio tra l'altro di spaccarsi una caviglia. Allora la settimana dopo sono sceso, deciso a fare un danno permanente. Ho puntato un palo del parcheggio, 8,19, 1 euro l'ora. L'ho sradicato con la forza delle mani. Ci ho messo un bel po', ma alla fine, anche se avevo le mani gonfie, mi sono sentito subito meglio. Solo che la settimana dopo l'ho ritrovato il palo lì dove l'avevo strappato. Ammazza, dico, che efficienza, c'è la crisi, ma i pali li rimettono. Non avevo calcolato che il fratello del sindaco ha una fabbrica di cartelli stradali, proprio non l'avevo calcolato. Allora le sere successive ho iniziato a camminare in un altro modo. Dico, ma devo essere un po' più presente a me stesso, un po' più attento a scegliere che cosa fare. Che cazzo saltello di qua e di là? Che cosa posso fare a quest'ora della notte che lasci il segno del mio passaggio? Cosa cazzo posso fare che lasci il segno del mio passaggio? Guardo le auto parcheggiate, parcheggiate in doppia fila, parcheggiate male. Potrei dar fuoco a una macchina, no? Poi vedo quel ragazzotto seduto dentro la sua smart che passa la notte in auto con la radio a palla che ha bloccato l'entrata del mio garage. Ma più che bruciare la macchina, perché non do fuoco a lui? Lo tiro giù dalla macchina e gli do fuoco. È una cosa difficile da realizzare, anche difficile da dire. Mi sento un po' imbarazzato. È una sensazione che mi prende dalla punta dei piedi e mi sale su, fin sotto i maroni e mi schiaccia la testa! Potrei ammazzare qualcuno! Mi va bene chiunque, eh? Non ho pretese. Chiunque mi capiti di incrociare! Lo guardo in faccia e lo ammazzo! La cosa però che mi infastidisce è che non trovo nessuno per strada. Sarà che scendo la sera tardi, sarà che c'è freddo, sarà che abito in un quartiere per bene e la gente se ne sta in casa a guardare la televisione? Sarà che c'è la recessione? Beh, sta di fatto o comunque che non trovo un'anima viva. Ho anche cercato quel ragazzotto con la smart, non c'era più. È colpa mia che mi muovo in modo strano, saltellando a zigzag avanti e indietro e che allontano le possibili vittime. E tutte le notti però torno davanti al portone di casa mia con il latte e le sigarette. Ma non ho ammazzato nessuno. E questo fatto che non ho ammazzato nessuno, mi rendo conto che è un fatto positivo, ma non mi sfogo, non mi scarico, non scarico lo stress. Mi sono anche domandato se forse non sia il caso, per risolvere il problema, di restringere il campo della mia ricerca, cioè circoscrivere l'azione di intervento. Cioè provare a cercare la mia vittima in un gruppo limitato di persone, non so, soltanto uomini trentenni fumatori. Allora aspetto la mia vittima vicino al distributore automatico, il trentenne fumatore. Attacco bottone con la scusa degli spicci da introdurre nella macchinetta e poi quando mi dà le spalle lo colpisco. Mi sembra una bella idea. Potrebbe funzionare, ma con cosa lo ammazzo? Potrei usare l'automobile. Allora sto dall'altra parte della strada seduto in auto con il motore acceso, non mi prendo freddo, aspetto che qualcuno vada a comprarsi le sigarette e quando mi volta le spalle ingrano la marcia e lo spiaccico contro la tabaccheria automatica. Allora la sera dopo prendo le chiavi della macchina, sto per spegnere la televisione prima di scendere e mi capita un talk show di politica, dove vedo parlare questi onorevoli, questi segretari di partito che non fanno altro che ripetere che tutto quello che dovevano fare e non sono riusciti a fare è colpa degli altri. Che lui aveva detto di fare così e l'altro che non gli ha risposto. Che lui non ha rubato niente, che gli avevano chiesto di farlo, ma non l'ha mica fatto. Lui aveva detto allora perché non l'avevano avvertito, che sono anni che lui dice quella cosa. Allora cosa? Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi tu? E comunque io non ho rubato. Io avevo detto di sì, tu hai detto di no. È colpa vostra se ci sono ancora un sacco di cose che dovevamo fare e non siamo riusciti a fare. Mi viene lo sbocco. Sto per uscire quando sento una musichetta in fondo al mio cervello. Dove lo trovo un politico? No, questo sì che mi piacerebbe ucciderlo. Mi va bene chiunque, non mi interessa niente se è di destra o di sinistra, se è di estrema destra, se è moderato. Non me frega un cazzo, l'importante è che faccia politica a qualsiasi livello. E dove lo trovo un politico in piena notte? Lo sanno tutti, lo sanno tutti. Ha una festa al night. Allora ho posato le chiavi della macchina, ho preso un coltello in cucina e sono andato al night. Se mia moglie sapesse che vado al night con queste intenzioni mi prenderebbe per pazzo. Però d'altronde vado al night senza tradirla, non è da tutti. Mi son venute davanti un mucchio di belle ragazze ed è comunque difficile dire: care mie, siete tanto tutte interessanti, ma se non fate politica niente. La prossima volta che torno vi do retta, ma questa sera proprio no. Io cerco un uomo, è molto più facile uccidere un politico uomo, viene quasi naturale. Ho ordinato un drink e mi sono fatto un giro per il locale. chi di loro è un politico? Assomigliano tanto a tutti gli altri politici? Solitamente sono vestiti abbastanza eleganti, con una bella cravatta, e con un paio ce ne sono. Scelgo quello al tavolino proprio alla mia sinistra, quello che sta con quella ragazza rossa, praticamente nuda. Ma come faccio ad ammazzarlo? Questo è venuto qua per stare con quella ragazza. Allora mi viene un'idea. Ordino un altro drink e con due drink in mano mi avvicino al suo tavolo. Mi metto alle spalle dell'uomo senza farmi notare, impilo i drink e con la mano libera tiro fuori una banconota da 100 euro e a gesti faccio capire alla donna, che ha entrambe le mani nella patta dei pantaloni della mia vittima, che per quel denaro se ne deve andare. Ma poi realizzo che perché l'uomo rimanga seduto al tavolo, il lavoro che la rossa sta facendo non si deve interrompere. Allora velocissimo poso i drink e sostituisco al volo le mani della rossa con le mie per continuare il servizio. Guarda cosa mi tocca fare per uccidere un politico. L'uomo, senza scomporsi troppo, mi guarda come se il cambio sesso del manipolatore non lo turbasse affatto. Anzi, mi guarda languido, ma scambiato per uno del locale. Mi vuole baciare. Adesso sinceramente non so quale sarebbe la reazione di mia moglie se mi vedesse. Credo che mi direbbe che sono in crisi e preferirebbe vedermi in compagnia della rossa che ho appena allontanato. Ma non devo pensare queste cose, devo stare concentrato! Mi scusi. Allora prendo coraggio e guardando la mia vittima negli occhi gli dico: lei non è un capolista, un sottosegretario, un dirigente di partito, lo confessi! No, beh, io faccio l'autista. Ah, ecco, di qualche dirigente, magari di partito, che viene qui la sera a cercare le donnine! Scusi, sa, ma lei cosa vuol da me? Stavo tanto bene con la rossa. Mi scusi. Ho tolto le mani dalla patta dei suoi pantaloni e sono andato a cercare la rossa. L'ho trovata al bancone del bar e le ho detto che l'uomo al tavolo la voleva per finire il lavoretto. Visto che c'era, le ho anche chiesto se sapeva se ci fosse qualche politico nel locale in quel momento. Lei mi ha guardato strana e poi mi ha detto: sì, tu sei bello giovane di politica italiana. Eh? Tu sei bello vestito di politica italiana. Cosa dici, scusa? Tu, politico? Come io? Come, che cazzo vuol dire di politica italiana? Scusa! E l'ho vista allontanarsi con altri miei 100 euro. Mi hanno scambiato per un politico a me. Cosa c'entro io con la politica? Ma niente. Mai fatto politica? Ma non vado neanche a votare io. La politica è tutto uno schifo, è tutto magna. Io non c'entro niente con quella gente là. Non ho mai rubato niente io. Visto che non sono riuscito ad ammazzare nessuno, perlomeno vado a comprare il latte e le sigarette. Ma quando sono arrivato al bar notturno, mi hanno chiuso la saracinesca in faccia. Troppo tardi, niente latte. Poi ho camminato ancora fino al distributore automatico e mentre cercavo gli spicci ho sentito una musichetta in fondo al cervello. Mi sono voltato e ho visto un uomo seduto in auto dall'altra parte della strada col motore acceso. Sono scappato via senza sigarette. Lungo la strada ho visto in lontananza un paio di uomini che saltellavano sul marciapiede. Si sono avvicinati a me, si sono fermati, mi hanno guardato strano, uno ha fatto anche un mezzo sorrisetto, poi se ne sono andati via sempre saltellando. Mi è venuta una paura addosso. Sono corso fino al portone di casa mia, sconfitto perché si era chiuso il percorso, ma chi se ne sbatte? Sono entrato nel mio appartamento e sono andato in cucina per nascondere il coltello. Proprio in quel momento è entrata mia moglie. Ci siamo guardati a lungo in silenzio. Poi lei mi ha chiesto: cosa cazzo ci fai con quel coltello in mano? Sei proprio in crisi. Tu domani vai a farti vedere, smetti di fare casino, spegni la luce e vieni a letto. Ho spento tutte le luci di casa e ho cominciato a girare nel buio. Ho fatto un paio di 8, anche un 88, ma in punta di piedi, per non disturbare nessuno. Poi mi è venuta voglia di guardare fuori dalla finestra per vedere se per caso ci fossero ancora quei due fuori sul marciapiede che saltellavano. Tutto vuoto. La televisione è spenta. Ma io sono sicuro che dentro anche a quest'ora c'è un talk show di politica. Mia moglie mi aspetta a letto, ma a me non va ad andarci. Preferisco starmene al buio, zitto, a guardare fuori dalla finestra. Che senso di fallimento e di inutilità. Mentre penso questi pensieri importanti, sento la solita musichetta in fondo al cervello. Dove ho messo il coltello? Allora sono tornato in cucina, ho acceso la luce sul tavolo, ho preso in mano il coltello, poi ho posato la testa sul tavolo, ho alzato il braccio, ho allungato il collo, dico: ma ammazzo, come si fa con le galline? Mio nonno faceva così, le metteva sul ceppo e le ammazzava con un colpo secco di coltello. E le galline correvano via senza testa. Correvano per qualche secondo senza testa fino in fondo al cortile. Non avevano bisogno della testa per correre. Mi ricordo questo da bambino. Mio nonno che ammazzava le galline. E mia nonna che cantava. E allora, lì, in mutande, col coltello in mano, mi è venuta voglia anche a me di cantare. Come fa quel pezzo? They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days, 'cause there's nothing, there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, but if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go, go, go. Si può sapere che cazzo fai? Lo sai che ore sono? Cosa fai in mutande col coltello in mano? Canti? Tu domani mattina vai a farti vedere da uno bravo. Allora sono tornato alla finestra, l'ho aperta, ma cominciava a vedersi la luce, quella del mattino, che non è proprio luce, ma si capisce che non sarà più notte. Quando la notte è più buia, un istante dopo diventa giorno. La strada aveva ricominciato a popolarsi. La gente usciva dalle case. Io volavo e guardavo quelle persone una per una che camminavano con la loro testa e sembravano felici. E io, invece di essere felice, ero triste. Triste da ammazzarmi, ma senza il coraggio di farlo. Guardavo quelle persone dall'alto e tentavo di entrare nella loro testa. Forse la libertà profonda è uscire di casa al mattino e mettersi a camminare. Sono stufo di pensare a me, alla crisi, a tutte quelle cose che dovevo fare che non sono riuscito a fare, a quella telefonata che doveva arrivare. Non è colpa del lavoro, non è colpa di mia moglie, non è neanche colpa della politica. Mi sa che sono io, proprio io. Tutto sbagliato cosa penso, cosa voglio, come sto con le altre persone, come guardo, cosa compro. Tutto sbagliato quel che compro, cosa penso mentre compro, i vestiti che mi metto. Tutto sbagliato, vorrei tornare indietro. Ma non so neanche che strada fare. Vorrei rinvoltolarmi come si fa con un calzino. Allora ho provato a uscire anch'io presto la mattina con l'aria di chi va a far qualcosa e mi sono messo a camminare in mezzo agli altri. Il fresco della mattina mi fa bene. Vado a comprare il latte, passeggio fino alla tabaccheria. E lì incontro il mio capo del personale. Strano vederlo lì, mi dico. Ci guardiamo. Aspettavo una sua telefonata. Tutti sanno sempre che cosa fare la mattina, io no. Sembra che io non ci sia, che io non esista nel mio ufficio. Che cos'è che devo fare per cambiare le cose? In un momento sembra cambiare. Credo di averlo accoltellato. Ho vagato tutto il giorno, sforzandomi di sentirmi in colpa per quel che avevo commesso. Ma non provavo un bel niente. Anzi, mi sentivo leggero. Leggero, percorso in marciapiedi in mezzo agli altri, quasi sorridente. Poi sono tornato a casa la sera, come se nulla fosse. Ho detto a mia moglie di essere andato al lavoro. Ho dato un bacio a mia figlia e ho guardato un po' di televisione. E mi sono addormentato sul divano. Ho dormito tranquillo tutta la notte, come fanno i bambini.